Mi senti? Ma davvero? E allora c'è un problema coi cosi, figlio. Il custom mixer, sì. We'll be right back.